America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And the reason for that expected pickup over time is first very accommodative monetary policy, which continues to provide support for the recovery. Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve, in qualche modo ieri ha un po' sorpreso i mercati, perché durante la fase di domande e risposte, dopo un discorso molto teorico sulla storia della Fed, a un certo punto ha detto, insomma, l'economia americana ha bisogno di una politica monetaria altamente accomodante. Ecco, il messaggio è chiaro, la Banca Centrale Americana sarà con voi, quindi i mercati che ieri erano un po' incerti, un po' a ribasso, poi nel dopo mercato si sono immediatamente ripresi. Intanto voglio farvi sentire un'altra cosa. We learned that the Costa Concordia trial is postponed. You remember it, the cruise ship that sank last year off the coast of Italy. Ecco, vi ho fatto ascoltare uno stralcio di una trasmissione della CNN, molto ascoltata, una trasmissione che viene vista da centinaia di milioni di persone attorno al mondo, condotta da Erin Burnett. E mi sono accorto che nessuno da noi ha trasmesso questo commento così molto acido, devo dire anche impietoso, della Burnett sul nostro paese dopo il downgrade di cui ho parlato ieri di Standard & Poor's dell'Italia, downgrade che ha portato a triplo B il voto che prima era di triplo B più, e quindi siamo a due passi, esattamente a due passi, da essere un junk bond, quindi un'obbligazione, un rischio che non è consigliabile comprare. Cosa dice la Burnett, che ogni giorno affronta un tema internazionale così, di una certa curiosità, di un certo interesse? E dice, abbiamo appreso che il processo per il naufragio della Costa Concordia è stato rimandato. 32 morti, il capitano della nave, il signor Schettino, incriminato per abbandono della nave e di omicidio plurimo colposo. Perché mai, dice così con tono un po' ironico la Burnett, questo processo, che avrà forse un migliaio di testimoni, è stato rimandato? Dice, perché gli avvocati in Italia sono in sciopero e questo sembra sia normale, al punto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha una sezione sul suo sito internet dedicata alla lista degli scioperi in calendario. Ora, per esempio, ci avverte che la prossima settimana ci sarà uno sciopero di 4 ore dei dipendenti all'Italia. Come vi dicevo, un'analisi impietosa, perché questa è un po' l'immagine che all'estero si ha di noi. Ma come, siamo in difficoltà, invece di rimboccarci le maniche e metterci a lavorare, e ci mettiamo a fare lo sciopero? Ma questi sono dei pazzi. E poi sentite però che cos'altro aggiunge. So this might be why we shouldn't be surprised Italy's credit rating got cut today. Anche per questo credo, dice la Brunette, che non ci sia da sorprendersi del downgrade dell'Italia da parte di Standard & Poor's. Quando si è sempre in sciopero ci sono delle conseguenze. Pensate, l'output italiano è sceso del 10% rispetto a 5 anni fa e ci sono molte ragioni al di là degli scioperi. L'uomo che ha guidato l'Italia per la maggior parte dell'ultimo decennio era forse troppo occupato coi suoi bunga bunga per accorgersi degli scioperi e trovare una soluzione, anche perché non sembra che le sue prostitute avessero scioperato. Ma seriamente, se l'Italia propinasse ai suoi lavoratori una piccola amorevole scossa o varasse leggi più severe, a seconda di come la vedete, forse il paese sarebbe più forte e i passeggeri alla Costa Concordia otterrebbero giustizia. Ecco, ripeto, un'analisi impietosa. Io di questo ho parlato su Twitter, mi sono accorto che ci sono state delle reazioni molto amare contro gli Stati Uniti, contro questo modo di vedere le cose in Italia. Però, insomma, non dobbiamo dimenticare che, giusto o sbagliati che siano i commenti della signora, e questi parlano davanti a centinaia di milioni di persone, quindi la nostra immagine comunque sia ne soffre. Ma non credo di essere la persona più adatta per commentare queste cose, anche perché ho con me ai microfoni di America 24 Lorenzo Binismaghi, ex membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, economista, professore a Harvard, membro dell'Istituto per gli Affari Internazionali. Buongiorno Binismaghi. Buongiorno. Dunque, mi pare che lei sia a Bruxelles per presentare il suo libro, Morire di austerità, giusto? Sì, è stato tradotto in inglese e l'ho presentato oggi a Bruxelles. Immagino che se lei titola il libro Morire di austerità, vuol dire che ci sta dicendo che dobbiamo occuparci della crescita. Sì, se non si cresce e non si fanno le riforme per crescere, rimane solo la soluzione del rigore fiscale all'estremo, che poi ci porta a ridurre la crescita invece di aumentarla. Ecco, Binismaghi, vorrei partire dal giudizio severo della Standard & Poor's, che è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno. Come reagisce? Ma guarda, questo è un parere, una delle agenzie di rating, è un parere dato sulla base di alcune valutazioni, insomma, che bisogna prendere così, senza considerare il Vangelo, ma non si può nemmeno rigettare. È un'opinione che poi ha un'influenza sui mercati, ha un'influenza su chi deve comprare debito pubblico. Quindi, diciamo, lei non è uno dei teorici della congiura, che sono cose che sono fatte apposta, e che gli americani lo fanno per tirare acqua al loro mulino, che prendono ordini da Washington? Ma mi sembra una visione molto provinciale questa. Le agenzie di rating sappiamo che hanno delle valutazioni che sono parziali, non prendono in considerazione spesso il futuro, però hanno un'influenza e oggettivamente sollevano delle questioni che poi chi vive in Italia ben conosce, che sono le rigidità del nostro paese che impediscono a soprattutto agli imprenditori esteri di venire a investire in Italia. Benismaghi, lei ha anche sentito questi commenti impietosi che così in una grandissima sintesi di questa signora Burnett danno anche un quadro piuttosto inquieto, quantomeno per il pubblico internazionale del nostro paese. Ecco, come li prende questi commenti? Fanno male, però poi se uno ci riflette un attimo, quello che ha detto è quello che vive l'italiano medio, cioè una lentezza della giustizia, una serie di problematiche burocratiche, situazioni di disagio per i cittadini, tutto questo portato a livello delle imprese spiegano perché l'Italia è al fanalino di coda degli investimenti internazionali. In effetti, investitori internazionali molto prudenti. Lei ha citato la burocrazia, la lentezza della giustizia, aggiungerei anche le incertezze fiscali e soprattutto questi scioperi, perché la Burnett batte proprio sulla questione degli scioperi, dice che si faccia qualche cosa, che ci si metta a lavorare. Ma perché non si fanno delle riforme? Le riforme sono impegnative politicamente, comportano dei costi. Si sa che in passato alcuni governi, lo stesso Schröder in Germania perse le elezioni dopo aver fatto quelle riforme che oggi consentono a Germania di essere l'economia più forte dell'Europa. Dunque affrontare le riforme politicamente non è facile, dunque spesso la politica tende a rimandare. Ecco, però in teoria oggi avremmo un governo in teoria diciamo di unità nazionale, per cui c'è colpa di tutti e colpa di nessuno, quindi torno a dire, secondo lei ci sono dei ritardi? Secondo lei qualche cosa succederà? La politica monetaria che è stata messa in atto dall'estate scorsa, no? Le dichiarazioni della BCE hanno ridotto la pressione dei mercati e i governi in Europa, incluso il nostro paese, forse hanno rallentato lo sforzo riformatore. Poi noi abbiamo avuto le elezioni, i mercati internazionali si sono messi a guardare, hanno aspettato, hanno cercato di capire se le riforme sarebbero ripartite e forse sono rimasti delusi. Bene, torniamo a quello che dicevamo, morire di austerità e dunque cerchiamo la crescita. Secondo lei l'unico modo è attraverso queste riforme oppure pigiamo l'acceleratore sulla politica monetaria come ha fatto un po' la Federal Reserve a livello di Banca Centrale Europea? Lei immagina il governatore Draghi aumentare molto la liquidità, una sorta di quantitative easing a livello europeo? Insomma, la Banca Centrale Europea ha annunciato che manterrà le condizioni monetarie molto favorevoli per un periodo prolungato, dunque ha dato una guida ai mercati che i tassi di interesse rimarranno bassi. Il problema è che questi tassi di interesse poi devono passare alle famiglie, alle imprese, a chi vuole investire, e chi vuole investire oggi non guarda solo ai tassi di interesse ma guarda per esempio a quanto tempo gli ci vuole per avere i permessi per aprire un capannone, in quanto tempo paga la pubblica amministrazione, se ha dei rischi con la giustizia, quanto tempo gli ci vuole. Sono tutti questi fattori strutturali che se non vengono rimossi, tassi di interesse bassi non cambieranno le scelte fondamentali di investimento. Ecco, Ben Bernanke diciamo in qualche modo ha colto un po' di sorpresa perché ha detto ieri che per un foreseeable future, quindi per un futuro prevedibile, dobbiamo immaginarci, aspettarci una politica accomodante. Tra l'altro ci sono stati ieri anche i verbali della Federal Reserve, ci hanno dato un quadro piuttosto curioso perché il Consiglio era spaccato in due, 6 contrari, 6 favorevoli, a terminare la politica di acquisto, di quantitative easing di 85 miliardi di dollari al mese entro quest'anno. Noi tutti ci aspettavamo che forse già novembre questo potesse cominciare a finire. E poi queste parole di Bernanke, insomma, come la interpretiamo? Cosa farà la Federal Reserve secondo lei? Il primo passo di uscita Bernanke l'aveva annunciato qualche settimana fa, i mercati si sono aggiustati, c'è stata una volatilità, tra l'altro gran parte della volatilità è avvenuta sui mercati esteri, non tanto sugli Stati Uniti. Ora spero che questo non crei confusione sui mercati, ecco, sulle intenzioni della Riserva Federale. Bene, chiudo con un pronostico, ce lo dia, ci rassicuri, ci dica qualche cosa di positivo. L'anno prossimo, come saremo in Italia? Un po' meglio o sempre in questa situazione, chiamiamola incerta? Staremo meglio se saremo in grado nei prossimi mesi di fare dei cambiamenti fondamentali nell'economia italiana e di fare quelle riforme che finora non abbiamo fatto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, ma soprattutto anche alla luce delle dichiarazioni della signora Burnett. Mandatemi i vostri commenti su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Neko Case torna con un nuovo disco dopo 4 anni di silenzio. The worse things get, the harder I fight, the harder I fight, the more I love. Questo è il titolo del nuovo album che uscirà il 2 settembre. Ascoltiamo in anteprima Neko Case, Man. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!